America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. His hands were all over me. He was like an octopus. It was like he had six arms. He was all over the place. Jessica Leeds, vi avevo detto qualche giorno fa che ci si aspettava qualche nuova rivelazione su Donald Trump. Ebbene, sono arrivate puntualmente. Questa è un'intervista concessa ieri al New York Times. Devo dire, la giornata di ieri è stata caratterizzata proprio da queste nuove rivelazioni di donne che si sono fatte avanti per raccontare come, diciamo, hanno avuto degli incontri sgradevoli con il Donald. Questa signora, che adesso ha 74 anni, racconta di un viaggio aereo. Già all'improvviso il poggiabraccio che divideva il sedile sparì e ci fu un vero shock quando d'un tratto le sue mani si posarono su ogni parte del mio corpo e lui cominciò a invadere il mio spazio. Era come un polipo, come se avesse sei braccia. Le sue mani erano dappertutto. L'ho fermato, l'ho respinto, ma nel frattempo era riuscito, come dire, a scioccarmi. Ecco, Jessica Leeds è soltanto una delle persone che si sono fatte avanti. L'incidente, dice, risale ai primi degli anni 80, quando dunque la signora aveva tipo 38 anni, oggi ne ha 74. Invece Rachel Crooks era una receptionist alla Trump Tower, 22 anni, e a un certo punto dice che nel 2005 incontra Trump davanti a un ascensore e si presenta, lavora per lui e dice: io lavoro per la sua società. Gli dà la mano e poi fa per ritirarla e quello gliela tiene, gli tiene la mano, poi la bacia sulla guancia e poi dice: mi ha baciato direttamente in bocca, sono rimasta sbalordita, a quel punto tirato via la mano, sono scappata via. Ecco, queste accuse, direi, stanno arrivando un po' dappertutto. Le abbiamo viste sul Palm Beach Post, per esempio Mindy Gillivray, che ha 36 anni oggi, e racconta che Trump le avrebbe messo le mani addosso a Mar-a-Lago in Florida nel 2003. Poi c'è Cassandra Searles, Miss Washington 2013, dice: mi toccava continuamente il fondo schiena, mi ha invitato nella sua stanza dell'hotel. C'è anche un video della CBS, un video in cui si vede Trump che si rivolge a una bambina di 10 anni, la saluta, dice: ma come sei carina, e poi fa un commento, e questo si sente dalla sua voce, dice: tra una decina d'anni ci risentiremo perché usciremo insieme. Ecco, questo quadro, direi, conferma quello che abbiamo visto la settimana scorsa. Io credo che alcuni danni potrebbero arrivare da Trump proprio sul fronte del sesso coi minori. Perché? Perché c'è un personaggio molto particolare che si chiama Jeffrey Epstein. Alcuni di voi lo ricorderanno perché è stato al centro dello scandalo con il fratello di Prince Charles, Prince Andrew. Prince Andrew aveva avuto degli incontri con delle minorenni grazie a questo signore Jeffrey Epstein. Ora è appena uscito un libro su Jeffrey Epstein e sui suoi scandali, e questo libro potrebbe essere devastante per Trump. Perché? Beh, perché Trump era molto amico di Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein aveva una casa in Florida, poi aveva un'isola nei Caraibi, e sembra che i due abbiano passato molto tempo insieme. Qual è la cosa curiosa? Beh, che anche Bill Clinton era molto amico di Jeffrey Epstein. Quindi qui, come si dice, il migliore ha la rogna. Ecco, non so come andrà a finire questa storia. La differenza ovviamente tra Bill Clinton e Donald Trump è che Bill Clinton è fuori dalla Casa Bianca, non corre per la presidenza degli Stati Uniti, mentre Trump sì, e dunque ovviamente deve rispondere delle sue azioni. Come risponde? Sentiamo. Now I'm being punished for leaving the special club and revealing to you the terrible things that are going on having to do with our country. Ecco, Trump ha parlato ieri da West Palm Beach in Florida e dice: beh, dice, nella mia vita precedente, da uomo privato, sottintende, sapevo bene cosa significasse essere parte del club delle persone speciali. Dice: ora mi stanno punendo per averlo abbandonato, per aver rivelato a voi i suoi segreti. Proprio perché ne ho fatto parte, sono l'unico che può sistemare le cose. Beh, ecco, devo dire, con una dichiarazione di questo genere Donald Trump non aiuta se stesso. È una dichiarazione che punta sul complotto. E attenzione, una dichiarazione che può avere presa su alcune persone. Io ricevo molti tweet di persone che sembrano essere totalmente in uno stato di ipnosi nei confronti di Trump, e per loro va bene, ritengono davvero che lui sia l'agente del cambio. Non importa che non sia preparato, quello che importa è che lui è messo in minoranza dal gruppo, tra virgolette e con la G maiuscola, di potere che muove tutti noi. Ecco, questo è un modo di pensare che appartiene più alla fantasia che alla realtà, però Trump ha deciso di cavalcare questo tipo di populismo e ha attaccato anche i media. Dice: la macchina di Clinton è così legata ai media che le danno anche il potere, dice Trump, di decidere i titoli che devono apparire sul New York Times, oppure le citazioni. E di certo il Times non ha mai dato lo stesso privilegio a me. La stampa è la più grande arma a disposizione di Clinton. Ecco, anche questo devo dire non è vero, perché Trump è stato un beniamino della stampa, dei media, della televisione. Lo hanno lanciato in qualche modo, perché era talmente un personaggio di rottura che riusciva a conquistare titoli di prima pagina in continuazione, anche sul New York Times. Il New York Times ha fatto una gran quantità di storie all'epoca delle primarie che raccontavano la sua vita senza attaccarlo, insomma, gli facevano un po' da megafono. Cosa ha fatto però Trump per dare sostanza alle sue parole? Ha denunciato il New York Times, ha detto che lo porterà in tribunale per diffamazione e gli chiederà un risarcimento danni così elevato, ha detto, che sarà costretto a chiudere. Il New York Times ha già risposto, ha detto: è benvenuto che ci faccia pure causa, vedremo il giudice cosa deciderà. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo arrivati a Robert Allen Zimmerman, nasce il 24 maggio del 1941 a Duluth in Minnesota, in the middle of nowhere, come si dice, arriva a New York dal profondo degli Stati Uniti e a New York diventa Bob Dylan, rivoluziona il pop, rivoluziona la musica, diventa un'icona di quegli anni difficili, anni di guerra, canzoni pacifiste e di protesta, testi straordinari. E devo dire, c'è una cosa che mi ha turbato in questa scelta, secondo me fantastica, giustissima, di dare a Bob Dylan il Nobel per la letteratura. E qual è? Beh, che qualcuno, anche il New York Times, che devo dire in questo caso pecca davvero di un eccesso, come dire, di intellettualismo, dice: no, ma Bob Dylan è un cantante, non meritava il premio Nobel, non è un letterato, il premio Nobel per la letteratura non doveva andare a lui. Ah sì? Quello ha scritto dei testi straordinari, è un poeta, è un artista. Ma Omero non era forse un poeta e un cantore? E vogliamo dire che Omero non avrebbe meritato il premio Nobel per la letteratura? Del resto l'ha avuto anche Dario Fo, non propriamente uno scrittore nel senso tradizionale del termine. Oppure poeti, molti poeti. Insomma, Bob Dylan, secondo me, lo meritava. È un grande artista, un grande autore e soprattutto un grande scrittore. A lui dedico la canzone del giorno con Highway 61 Revisited. Bob Dylan! Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but... Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!